nulla è peggio dell'inferno. Quando il paradiso mi spalancherà, buca lo sguardo che della sua luce non ti basta il cielo, non ti basta mai, non mi basta mai. Spira nel fianco che non brucia più e non basta mai. Niente fa volare in alto quanto il muto soffio su di vanità. Nel fondo è caldo ma ti mozza il fiato quando ci respiri la sua volontà. Nulla mi farà soffrire più del desiderio suo di frenesia. Mi pruda in mano, frigge la mia attesa e il dolore è un treno. Più che non sazia mai.